i campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 novembre, il sole in regione è sorto alle 7 e tramonterà alle 16.41. Martedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Le intenzioni di semina sono uno dei momenti strategici dell'annata e fanno capire quali siano gli orientamenti culturali di economia agraria. Due volte all'anno Vita nei Campi dedica a questo argomento l'apertura di trasmissione, oggi focalizzata sulle colture autunno-vernine e il bilancio di quelle primaverili. Seguire per la rubrica del bio un'intelligente pratica di pacciamatura a verde, utile soprattutto per i frutteti, mentre per la rubrica del vino ultima puntata dedicata all'antica Grecia. Tutte le virtù della genziana maggiore sono descritte nello spazio che dedichiamo alle principali piante del nostro territorio, mentre per la saga del maiale oggi un pentalogo di benessere animale. Nell'angolo agroalimentare avremo un diluvio di proverbi e notazioni storiche per San Martino, che il nostro Roberto Zottar festeggia con una succulenta ricetta di fagiano al forno. E poi, come di consueto, l'andamento dei mercati, le previsioni del tempo per la settimana prossima, con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Due volte all'anno Vita nei Campi ospita Andrea Fabbro del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. È lui che ci segue gli andamenti e le previsioni di semina per le campagne agrarie. Iniziamo com'è andata quella appena conclusa. Visto un po' l'andamento stagionale per quanto riguarda la soia, la campagna ancora non è ultimata, saremo a un 60% con delle produzioni sostanzialmente buone. Quindi una campagna che dal punto di vista della produzione della soia sta rendendo soddisfatti gli agricoltori. Per quanto riguarda il mais, lì la fase di trebbiatura è molto più avanzata, siamo intorno a un 85% abbondante di trebbiature. Qui purtroppo in alcune aree le produzioni non sono certo positive, quindi abbiamo dei cali produttivi che alcune parti della nostra regione segnano un calo anche marcato. Oltre a soia e mais ci sono state colture, chiamiamole così, alternative? Le colture alternative, sì, il girasole quest'anno in Friuli è stata una coltura molto presente, con una superficie significativa, molto importante nella nostra regione, con produzioni che qua possono essere considerate nella media di questa cultura, tenendo conto anche dell'andamento stagionale estivo, che è stato un andamento stagionale particolarmente complicato. Abbiamo avuto colture di sorgo anche, che nella nostra regione hanno preso piede, soprattutto anche qui molto concentrate sia per l'uso zootecnico sia per la granella, e anche qui le produzioni possiamo considerarle nella media positive, non eccezionali ma comunque insomma discrete. Intenzioni di semina, gli autunno vernini. Gli autunno vernini, stiamo nella fase di semina dei cereali, siamo una fase, se confrontata rispetto all'anno precedente, leggermente in ritardo per quanto riguarda le semine. Un po' tutta la campagna quest'anno ha segnato qualche giorno di ritardo rispetto alla precedente. C'è intenzione di seminare frumento e anche orzo, un po' localizzata negli areali più vocati. C'è una buona presenza, ecco, devo segnalare anche di colza anche quest'anno. Di conseguenza possiamo dire che il nostro quadro varietale di specie della nostra regione sta un momentino ampliando rispetto a quello che era il singolo mais, il solo mais. La dittatura del mais, qualcuno la chiama così, è finita. Come siamo, come equilibri tra soia, mais e le altre colture? Sostanzialmente la parte del leone la fanno mais e soia, giocandosi un po' il primo posto ad anni alterni queste colture, però indubbiamente il nostro quadro varietale si sta ampliando, quindi il girasole, il sorgo, i cereali autunnali nella fase in cui siamo attualmente di semina stanno prendendo piede, quindi direi che abbiamo una regione sostanzialmente in cui il quadro varietale dei seminativi sta un momentino ampliando, dando delle opportunità anche ai nostri agricoltori. Una volta c'erano anche le foraggere. Scomparse? Scomparse proprio no, però indubbiamente limitate nella loro presenza, soprattutto per quanto riguarda la medica, a quelli che sono i comparti più a vocazione zootecnica. Però diciamo che queste sono colture che mantengono una superficie abbastanza stabile nel nostro quadro regionale. Avversità climatiche forse hanno inciso più su certe zone che non altre, e poi avversità anche dovute a insetti, la cimice marmorata in primis. Sì, indubbiamente. L'andamento stagionale, sia la primavera particolarmente piovosa prima che ha ritardato un po' le semine. Poi l'estate è particolarmente torrida, con scarsità di precipitazioni che poi si sono protratte anche nel tempo. Nella parte terminale dell'estate indubbiamente non ha favorito lo sviluppo e la vegetazione e anche la fase produttiva della coltura. Cimice sì, è presente, è un problema endemico molto presente in regione. Si pensava che il danno sulla soia fosse importante, ma c'è stato un danno, ma non così catastrofico. Oggi Cristina Micheloni per la rubrica del bio ci parla della pacciamatura, o meglio di una speciale tecnica, la pacciamatura viva sotto gli alberi da frutto. Ed è una maniera per fare un po' meno fatica nel gestire quella che è l'inerbimento o la crescita delle malerbe sotto i filari dei frutteti o dei vigneti. In frutticoltura soprattutto, quando dobbiamo gestire il sottofila o dobbiamo agire con la chimica se non facciamo agricoltura biologica, oppure si va con degli attrezzi meccanici, oppure ancora si pensa alla pacciamatura o con la paglia o con materiali biodegradabili. Comunque è un costo ed è un lavoro che richiede molte ore. Una serie di ricercatori hanno messo a punto una strategia invece che premia la pigrizia, mettiamo così, nel senso che permette di utilizzare delle piante specifiche da mettere a dimora sotto i filari, piante che sono tutte rizomatose, quindi hanno un habitus di crescita strisciante, non crescono troppo, non hanno una crescita estiva importante, ma invece resistono bene alle temperature basse d'inverno e quindi possono coprire con un tappeto il sottofila e non dare nessun fastidio, anzi. Di che piante parliamo? Parliamo per esempio di alcune stolonifere come la potentilla. La potentilla ha poi una serie di sottospecie che la compongono, ma anche delle fragole, soprattutto delle fragoline di bosco, poi si possono anche mangiare se non facciamo i trattamenti evidentemente, però sono tutte quindi piante che apportano dei benefici per la biodiversità, ma se mettiamo per esempio anche del melilotto, comunque delle leguminose, apportano anche l'azoto necessario e non ci danno lavoro perché non dobbiamo né sfalciarle né gestirle in altro modo. Perché ve lo raccontiamo adesso in questa stagione? Perché questo è il momento di preparare il terreno per la strategia se la volete mettere in pratica, quindi cominciate a dissodare, ordinate le piante o quello che volete trapiantare e preparatevi per metterla a dimora. Serve ancora una puntata per esaurire il tema del vino nell'antica Grecia. Lo facciamo con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine e che ci cura questa rubrica. Abbiamo visto come i vini greci erano vini concentrati, che non erano consumati come tali, ma che venivano diluiti al momento, diciamo, del consumo. Prima operazione era la diluizione con acqua che tendenzialmente era acqua fredda. Perché? Perché il vino caldo non è piacevole, perché quest'acqua fredda era o propria, diciamo, di temperatura giusta, oppure veniva addirittura addizionata di neve, che veniva o direttamente prelevata, diciamo, dalle zone di produzione o conservata all'interno di appositi nevai. La cosa più interessante però, che ci rimane ancora oggi come cultura, era che l'occasione di diluire il vino avveniva in una sorta di riunione di famiglia o con amici, che si chiamava simposio. Il simposio voleva dire trovarsi per parlare di cose ludiche o anche dei massimi sistemi intorno ad un cratere dove un simposiarca, una sorta, diciamo, di sommelier dell'epoca, aggiungeva l'acqua nella giusta proporzione ed eventualmente addizionava anche miele o erbe officinali. Consumare vino concentrato era considerata un'operazione disdicevole. Il vino era concentrato per garantirne la conservazione e anche per garantirne il trasporto. Se vi ricordate, Ulisse nel suo peregrinare nel Mediterraneo ad un certo punto viene, potremmo dire, incantonato nella casa da un certo Polifemo. E cosa fa l'astuto Ulisse? Cerca di abbonirsi Polifemo offrendogli del vino, ma glielo offre concentrato. Così Polifemo ben presto perde il senno e Ulisse potrà scappare, diciamo, dalla casa di Polifemo insieme ai suoi compagni. Tutti Tutti conoscono questa pianta soprattutto per il suo utilizzo digestivo abbinato alla grappa, ma tante sono le virtù della genziana, come ci racconta oggi Antonino Danelutto. Questo sarebbe il periodo più adatto per procurarci le radici o i rizomi di piante spontanee aventi proprietà curative, ma il nostro regolamento regionale in fatto di tutela della flora vieta di estirparli e di asportarli, a qualsiasi specie botanica appartengono. Peggio ancora se la pianta rientra tra quelle cosiddette di interesse regionale, protette per regolamento, come la genziana maggiore. La sua grossa radice carnosa destinata ai liquori amari normalmente proviene da coltivazioni, tuttavia non è escluso che ci sia chi vuole procurarla da sé, violando la normativa in vigore e correndo il rischio, come si è verificato altre volte, di scambiarla con quella del veratro o eleboro bianco assai tossico. La genziana maggiore, nome scientifico genziana lutea, in friulano anziane, genziane, la si incontra, seppur non frequentemente, nei prati e nei pascoli montani e alpini. La sua prima fioritura avviene a circa 10 anni di età. È una pianta erbacea perenne, glabra, con grossa radice lunga ramificata, internamente gialla. Il fusto è eretto, robusto, semplice, alto anche oltre 1 metro. Le foglie basali sono grandi, picciolate, ellittiche. Quelle del fusto più piccole, sessili e opposte. I fiori compaiono in giugno-luglio, hanno una corolla giallo-dorata diviso fino quasi alla base in 5-6 lacinie. Il frutto è una capsula con numerosi semi ovali, compressi e alati. Della genziana si utilizza la radice in frammenti o in polvere, contiene diversi principi attivi che vanno sotto il nome di amaroidi. Vi è pure presente in piccolissime quantità l'amaro gentina, che ha un elevatissimo potere amaricante, tanto da essere considerata la sostanza più amara che si conosca. Il suo uso principale è quello amarotonico. Gli amaroidi stimolano i recettori gustativi della mucosa orale, che per via riflessa generano un aumento della secrezione salivare e gastrica. Pertanto, come aperitivo, se ne consiglia l'ingestione mezz'ora prima dei pasti, assaporando a lungo prima di inghiottire, per favorire il contatto con i recettori. Presa dopo i pasti facilita comunque la digestione. È controindicata nei soggetti affetti da iperacidità gastrica o da ulcera gastroduodenale. Il suo impiego non è limitato a preparati eupeptici e a liquori amari. Infatti è uno dei migliori tonici dell'apparato digerente e valido supporto nelle convalescenze e nelle debilitazioni psicofisiche, aumenta il numero di globuli bianchi e dà attività antinfiammatoria. Prima dell'introduzione in Europa nel XVII secolo della china dalle Ande peruviane, era ritenuta febbrifuga per eccellenza, soprattutto contro le febbri malariche. Continua con Adriano Del Fabbro il nostro viaggio nel mondo del maiale, delle tradizioni legate a questo nobilissimo animale, e oggi ci parlerà di benessere rosa, ovvero come si deve accudire e coccolare il maiale perché dia buoni frutti. Il suino allo stato brado è onnivoro, ama cacciare e grufolare, ha un olfatto molto sviluppato, vive in piccoli gruppi con il maschio che vive solitario. Il territorio occupato viene suddiviso in aree di riposo, pascolo e defecazione. Beve molto spesso e si alimenta di giorno. Durante la ricerca del cibo può percorrere anche 50 km. Per molto tempo ama rimanere disteso in aree asciutte e riparate, con buona possibilità di visione circostante. Contrariamente a quanto si pensa, evita di sporcare con urina e feci l'area di riposo. È un animale pulito. Le relazioni sociali sono molto stabili, mantenute attraverso gli odori e le vocalizzazioni. Usa gli alberi per grattarsi in quanto non raggiunge tutta la superficie corporea. Nel gruppo gli animali subordinati toelettano i dominanti, che giacciono sdraiati sul fianco, mentre i primi li mordicchiano sul ventre. Nei suini adulti la termoregolazione è difficoltosa a causa della scarsa copertura di pelo e della sudorazione limitata. Con il caldo si rotolano nel fango, se hanno freddo invece si coricano in luoghi riparati uno ridosso all'altro. I suini hanno un campo visivo di oltre 300 gradi e percepiscono i colori con, invece, una bassa percezione della profondità di campo. Si fermano a osservare oggetti sul percorso, si spostano naturalmente verso un'area illuminata, ma si bloccano di fronte a zone d'ombra o abbaglianti. Dunque, nella gestione corretta dell'allevamento suino devono essere garantite agli animali 5 libertà. Primo, la libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione tramite l'accesso facilitato all'acqua pulita e un'alimentazione in grado di favorire lo stato di salute e di vigore dell'animale. 2. libertà dal disagio tramite la creazione di ambienti adeguati comprensivi di aree riparate e di riposo. 3. Libertà dal dolore e dalle malattie tramite la prevenzione, la diagnosi e la terapia puntuali. 4. Libertà di esprimere un comportamento normale fornendo spazio sufficiente, ambienti puliti e favorendo la formazione del gruppo. 5. Libertà dallo stress e dalla paura, assicurando le condizioni di vita che evitano la sofferenza mentale. L'allevatore dunque diviene responsabile della qualità dell'ambiente in cui essi vivono e tale ambiente deve permettere agli animali di adattarvisi. I suini che hanno frequenti contatti con l'uomo si stressano meno, sono più facili da condurre e rimangono calmi durante gli spostamenti. Conseguentemente, in questi casi la qualità della carne è buona. È sufficiente un contatto uomo-animale di pochi minuti al giorno. L'allevatore deve sempre essere calmo e paziente. Se l'animale non vive bene, emette dei segnali tramite la ripetizione ossessiva di comportamenti privi di senso. In conclusione, il benessere animale ha motivazioni etiche, produttive e di sicurezza operativa. Il ruolo e la responsabilità dell'allevatore, perciò, sono elementi indispensabili e assolutamente rilevanti. Domani San Martino è un giorno zeppo di proverbi e modi di dire e rappresenta anche l'antica data di chiusura dell'annata agraria e per festeggiare Roberto Zottar ci offre una succulenta ricetta di fagiano arrosto. Domani è San Martino, santo a cui sono connessi proverbi e tradizioni gastronomiche, anche perché l'11 novembre, una volta, era una sorta di capodanno. Cominciavano le attività dei tribunali e delle scuole e scadevano i contratti agricoli e di affitto. San Martino donò metà del mantello a un povero e perciò è patrono dei sarti e dei mendicanti, per la cinghia della spada dei conciatori di pelle, poiché trasformò l'acqua in vino e patrono degli osti, dei viticoltori e dei sommelier. Per San Martino ogni mosto è vino, leggero ma traditore, sicché nell'Istria la festa è anche detta degli imbriagoni. In Romagna si dice «Par San Martin un s'imbriaga grand snen», cioè per San Martino si ubriaca il grande e piccino. In questo periodo si svolgeva la fiera degli animali con le corna e la fantasia popolare ha assurdamente promosso San Martino anche a ironico patrono dei cornuti, i mariti traditi, come ricorda il detto «Par San Martin volte zira tot i bec i va alla fiera», cioè per San Martino volte gira tutti i cornuti alla fiera. A tavola è consuetudine mangiare l'oca, oca d'indio e vin, polenta de sarasin e viva San Martin, ed anche chi non mangia l'oca San Martin non fa il becco de un quatrin, anche se l'oca va presto a noia e il popolo dice done e oche tiengene poche, e in caso di difficoltà si dice non se cuca oca, cioè non c'è trippa per gatto. Ma quanto è vecchia deve essere un'oca? Porco de un mese, oca de tre, bocconi de papi e de re. E l'oca deve essere grassa perché si dice tre robe se cattive magre, oche, donne e cavre. Ma forse è meglio aspettare la fine del mese perché diventa oca fina quella messa in coconar per Santa Caterina. Ma anche tempo di purcitament, a San Martin la Luiania talchiadin, e di stagione della lepre, a San Martin e lieveros in camin e del tacchino, per San Martin, d'indio e sarasin e chi lo magna gamorbin che geldura senza fin. E del pari, per San Martin, se rosti e magna il d'indio in teccia con la lasagna. Oggi però vi voglio consigliare per San Martino un fagiano arrosto con una splendida salsa. Cuciniamo arrosto come d'uso con cipolla, aglio e romi, un fagiano bardato con prosciutto crudo. Con i fegatini del fagiano, il fondo di cottura e il prosciutto che lo bardava, si fa un sughetto che va sfumato con aceto, si aggiunge panna, si riduce un po' e via tutto al passaverdura. Il fagiano di solito è asciutto, ma servito a pezzi con questa salsa è decisamente più morbido e gustoso. Stessa ricetta anche per una faraona. Buon appetito! E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con scambi diversificati. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,80 e 16 euro il quintale IVA esclusa, la soia tra 33 e 33,30, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,30 e 15,80, il frumento tra 17,70 e 18 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 80 centesimi il quintale e la soia gennaio è aumentata di 30 centesimi. Mercato fiacco nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni sofferenti anche in quello dei vitelli da ristallo, con i blueberry a maschi quotati tra 5,80 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,20 e 4,60, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze progressive invece nel comparto suinicolo, con il valore della tonzoli di 30 kg franco partenza fissato a 2,65 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello in aumento tra 1,60. Stabilità nel settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura e l'erba america vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro al quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,50 e 13 euro. Infine, tendenze diversificate anche nel settore del mercato degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,01 e 1,03 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,56 e 1,58, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,45 e 2,49, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUN di Verona in aumento tra 2,65 e 2,71, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 13,50 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA, Marcellino Salvador, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Oggi si chiude la prima decade di novembre che ha già portato diverse perturbazioni sulla regione, con piogge frequenti e anche intense, venti sostenuti e neve in montagna. Sui monti sono caduti dai 150 agli oltre 400 mm di precipitazione, su pianure e costa in genere tra 100 e 150, sui colli orientali tra 150 e 200, meno invece a Lignano, località in cui si sono registrati 75 mm. La zona più piovosa è stata fino ad ora la Varresia, con 430 mm. Sono valori che già raggiungono in diverse zone la media mensile climatica, che tra l'altro è la più alta dell'anno. E le prospettive sono di ulteriore incremento dei valori, sia perché mancano due decade alla fine del mese, sia perché, come vedremo tra poco, sono in vista altre piogge già questa settimana. Per ora, comunque, riguardo ai quantitativi di precipitazione, non siamo a valori record. Il periodo, infatti, è proprio quello delle forti sciroccate autunnali, ricordando in primis quella storica del 3-4 novembre 66, ma ve ne sono state molte altre, seppur inferiori a questa. Anche la tempesta Vaia dello scorso anno era solo di pochi giorni anticipati, dato che è di fine ottobre. Dopo la tregua odierna, che in qualche modo possiamo considerare come brevissima estate di San Martino, il tempo già da domani peggiorerà. Aria umida in arrivo dal Mediterraneo in quota porterà dal pomeriggio deboli piogge. Tra martedì e mercoledì una depressione mediterranea, dopo aver raggiunto il Nord Africa, risalirà verso l'Italia, facendo affluire forti correnti di bora nei bassi strati sull'Adriatico e aria umida da sud in quota. Avremo quindi piogge da moderate ad abbondanti, ma non particolarmente intense, con quota neve martedì oltre 1500 metri e mercoledì oltre 1000 metri circa. Sulla costa la bora nella notte tra i due giorni soffierà forte. Le temperature massime saranno intorno ai 15 gradi su pianure costa. Giovedì vi sarà una pausa con tempo migliore. Venerdì invece un altro fronte atlantico entrerà nel Mediterraneo e probabilmente riporterà piogge abbondanti in regione. Come si vede, il tempo continuerà ad essere perturbato e questo manterrà la temperatura mediamente sui 10 gradi in pianura e verso i 15 sulla costa. Le minime da martedì al fine settimana non scenderanno sotto i 5 gradi in pianura e i 10 sulla costa. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che quotidianamente l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffuse anche nei notiziari regionali della RAI, in TV con Buongiorno Regione, nonché sul sito www.meteo.fvg, la telefonia mobile e gli altri canali informativi. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Sorelia San Martin, alda un invier chianin, ovvero se c'è sole il giorno di San Martino, l'11 novembre, ci sarà un inverno duro. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?